Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, nemmeno a dirlo, cercheremo di farvi ascoltare. C'è un po' di ritardo, come immaginabile, la conferenza stampa del Premier Matteo Renzi dopo il Consiglio dei Ministri, molto atteso, ma adesso bisogna capire i soldi messi a disposizione e soprattutto le coperture. Confermato il taglio delle tasse, quindi cuneo fiscale, Jobs Act e il piano casa. Doveva iniziare 10 minuti fa la conferenza stampa di Renzi, vedremo appunto di trasmetterla in diretta, nel giorno in cui però ha parlato anche Cottarelli, e quindi l'uomo Mr. Spending Review, l'uomo che deve ridurre e anche rimodulare la spesa pubblica. Cottarelli ha annunciato oggi in un'audizione al Senato le proposte della Spending Review e le ascolteremo. Dopodiché, sul fronte sempre politico, l'importante sarà capire, ripeto, coperture e ammontare della manovra, che si dà per scontato quanto cuneo fiscale sia quasi tutta, se non completamente, sull'IRPEF. Di questo parleremo nel corso della diretta, nel giorno in cui, per quello che riguarda le altre notizie, c'è una dichiarazione interessante che vi faremo ascoltare di George Soros, considerato il guru della finanza mondiale per la sua capacità di fare investimenti anche speculativi. Qualcuno di voi lo ricorderà a suo tempo, quando contribuì non poco a cacciare la lira dallo SME e poi anche la sterlina, di George Soros sul destino a cui si sta consegnando l'Europa se si continua con, lo dice lui, non lo dico io, con politiche a direzione, a matrice tedesca. Ed è interessante perché appunto lo dice chi in realtà non ha un interesse diretto nelle dispute europee. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questa giornata, buono oggi sia lo spread che un insieme di poco sotto i 180 punti, che l'andamento dell'asta dei bot italiani a un anno, minimo storico, quindi non abbiamo mai dovuto pagare così poco per trovare finanziatori del nostro debito a un anno, assegnati titoli per 7 miliardi di euro, con un rendimento al minimo dello 0,59% contro lo 0,67% dell'asta di febbraio. Buona anche la richiesta a quasi 11 miliardi per i 7 miliardi da collocare. Parleremo del Monte dei Paschi di Siena, perché oggi, dopo la pulizia shock, diciamo così, fatta da Unicredit ieri, 13 miliardi e 7 di accantonamenti, vuol dire che la banca ha messo in cascina 13 miliardi e 7 per crediti, soprattutto, che non potrà riavere indietro per le sofferenze. Il che la dice lunga su quello che possono diventare i bilanci bancari quando si fa pulizia veramente. Lo dico perché molti si sono messi adesso a guardare alle altre banche e a cercare di capire cosa capiterebbe se un'operazione di pulizia analoga venisse fatta anche in altre banche. Dicevamo del Monte dei Paschi. Il 2013 si chiude in rosso per 1 miliardo e 430 milioni di euro, era di 3 miliardi e 160 il rosso 2012. Il dato, pur in miglioramento, chiaramente è la metà, però è peggiore delle attese degli analisti, che si aspettavano un rosso da 850 milioni di euro. Perché questo? Anche in questo caso per le rettifiche sui crediti. Cosa succede? Che quando tu prestiti dei soldi come banca, a un certo momento devi anche prendere atto se questi soldi sono crediti che ti aspetti possano ritornare, oppure sono sofferenze, cioè crediti che non riavrai indietro. Quando ne prendi atto e lo metti a bilancio, ecco che aumenta il rosso, nel caso appunto le rettifiche sui crediti questo vogliono dire. Crediti che venivano considerati migliori e vengono poi rettificati come crediti peggiori. Pesano per 2 miliardi e 750 milioni nel solo trimestre, per 1 miliardo e 210 milioni. Questo l'ho annunciato la stessa Monte dei Paschi. Il presidente Profumo ha detto: non mi preoccupa la nazionalità dei soci, e la finestra per è stato anche precisato che la finestra per lanciare l'aumento di capitale, quello rinviato dopo la richiesta della Fondazione Monte dei Paschi, richiesta insomma braccio di ferro tra Viola Profumo e il Monte dei Paschi, quindi la sua presidente Mansi, dicevo, l'aumento di capitale avrà come finestra dal 13 maggio in poi, le condizioni stabilite dal consorzio di garanzia restano invariate e la decisione adottata dall'assemblea di fine 2013, quando la Fondazione Monte dei Paschi aveva chiesto appunto il rinvio di qualche mese per un'operazione che vale 3 miliardi di euro di aumento di capitale. Avremo anche, commenteremo anche i conti di Enel, anzi facciamolo subito, così partiamo con i conti di Enel, perché oggi Enel ha diffuso i conti 2013. L'utile cresce del 10% a 3 miliardi e 100 milioni, il dividendo è di 13 centesimi di euro, il debito è sceso a 39,8 miliardi. Su questo Fulvio Conti, l'amministratore delegato di Enel. Garantire un mantenimento di un livello di indebitamento tale da meritarsi il credit rating, investment grade, che è quello che noi vogliamo, e facendo comunque anche tutti gli sforzi necessari per nuove tecnologie, investendo in crescita di capacità e soprattutto nuovi prodotti da offrire a 61 milioni di clienti che abbiamo in giro in tanti paesi, a partire dall'Italia e dalla Spagna. Com'è possibile coniugare, diciamo, la riduzione dei costi con una politica di investimenti solida come questa? Quella che sta facendo comunque Enel. Facendo più con meno, riuscendo a essere più efficienti e ad essere soprattutto tempestivi nello scegliere l'investimento giusto nel paese giusto al momento giusto. Abbiamo costruito un'azienda multinazionale che offre sinergie al proprio interno con l'acquisizione di Endesa, tanto per citare un esempio, abbiamo migliorato di 1,4 miliardi ogni anno il risultato economico di questa azienda, mettendo a fattor comune gli acquisti, mettendo a fattor comune le esperienze ingegneristiche e tanti altri attività operative. In questo senso che va anche la nostra dinamicità nei nuovi mercati, dove abbiamo portato nuove tecnologie, le rinnovabili tra le prime, e abbiamo costruito un mix tecnologico, un mix di paese in grado di far fronte a qualsiasi crisi economica. Sono risultati che lasciano ipotizzare anche la possibilità di un nuovo mandato. Io credo che soltanto gli azionisti possano parlare di nuovi mandati. Io continuerò a lavorare con la logica del lungo periodo e poi decideranno loro in assemblea. A loro la parola. Così appunto Fulvio Conti, amministratore delegato dell'Enel. Mi scrive un ascoltatore che io ogni volta che c'è una notizia sul Monte dei Paschi ne faccio una tragedia, mentre sono più buono con Unicredit. No, guardi, si sbaglia, nel senso che comunque abbiamo riconosciuto che c'è un dimezzamento del debito del Monte dei Paschi, da 3 miliardi e 160 milioni nel 2012 a 1 miliardo e 430 milioni. Da quello che vediamo, Viola e Profumo, Viola in primo luogo perché è amministratore delegato, stanno facendo un ottimo lavoro. Ho fatto solo notare che quando le banche iniziano a diciamo descrivere in maniera realistica i crediti che hanno, andando a essere ancora, diciamo, essere molto molto realistici sulla possibilità di poterli riavere, poi ecco che le rettifiche sui crediti pesano, e pesano nel caso del Monte dei Paschi per 2,75 miliardi. Hanno pesato gli accantonamenti ieri su Unicredit per 13,7 miliardi. Le cifre si commentano da sole. Come vanno i titoli in borsa, visto che ne stiamo parlando? Il Monte dei Paschi guadagna l'1,30%, molto forte oggi di nuovo la Popolare di Milano, più 5,28%, ma anche molto forte UbiBanca, perché i conti sono stati apprezzati, più 4,45%, bene anche Generali più 1,36%, ed Enel, di cui abbiamo appena parlato, 1,36% rialzo. Negative invece Tod's e Ferragamo, quindi settore lusso, pesano le prospettive per la moda nel 2014, meno 5% Tod's, meno 2,80% Ferragamo, ma poi c'è Campari che perde il 4,5%, Yux che perde il 3,50%, Luxottica perde l'1,60%, Autogrill l'1,80%. Molti di voi chiedono al 349-238-6666 e anche poi l'altro indirizzo è quello di Facebook, la pagina di Facebook di Focus Economia su Facebook, le dichiarazioni di Soros. Ve le facciamo ascoltare perché l'ha detto oggi in un'intervista a Bloomberg TV. Ha detto sostanzialmente il finanziere considerato appunto uno dei più grandi al mondo, l'Europa potrebbe sperimentare una stagnazione stile Giappone per i prossimi 25 anni se non accelera il processo di integrazione e non vara riforme radicali. Bisogna risolvere i problemi del settore bancario dell'Unione Europea e bisogna affrontare una crisi politica che ha diviso l'Europa tra creditori e debitori. Unless there is a more radical change, is a long period of stagnation. Senza l'avvio di riforme radicali, l'Europa si avvia a vivere un lungo periodo di stagnazione. Le nazioni possono sopravvivere a queste situazioni. Il Giappone, ad esempio, è appena uscito da una stagnazione durata 25 anni. Ma l'Unione Europea non è una nazione, è un'incompleta associazione di nazioni e non potrebbe sopravvivere di fronte a questa prospettiva. La crisi finanziaria è finita, ma ora ci si trova ad affrontare una crisi politica. La crisi dell'area euro ha trasformato quella che doveva essere una volontaria associazione tra stati sovrani su un piano egualitario, che sacrificano parte della loro sovranità per il bene comune, in qualcosa di completamente diverso. Ora l'Europa è un rapporto tra creditori e debitori, dove i debitori fanno fatica ad onorare i loro debiti e i creditori comandano. Sfortunatamente, le politiche che la Germania sta imponendo all'Europa sono controproducenti e non fanno altro che peggiorare sempre di più la condizione dei paesi debitori. Worse and worse. Oh, lo dice Soros. Poi un ascoltatore mi fa notare: beh, magari Soros parla di questo perché è in conflitto di interessi, perché magari ha preso posizioni lunghe sul debito e sulle azioni, quindi sui titoli di Stato e sulle azioni dell'Europa periferica. Periferica non so cosa sia, dell'Europa del Sud, Italia, Spagna. Ma ho capito. A, non lo possiamo sapere. B, cosa facciamo? Ogni volta che parla Soros oppure Warren Buffett non citiamo quello che dicono perché potrebbero avere posizioni di interesse. Abbiate pazienza. Dopodiché io personalmente, se lo sapete, sono d'accordo al 100% su quello che ha appena detto Soros, cioè ridurre l'Europa a un rapporto tra creditori, Germania e i paesi del nord, debitori, i paesi del sud, dove comandano i creditori e impongono rientri che soffocano l'economia, peggiorano il ciclo, aumentano la recessione, mi sembra un gran atto di masochismo, perché poi il debitore lo devi tenere anche in vita se vuoi che ti ripaghi i suoi debiti. Ha ragione invece chi mi fa notare che non ho detto gli altri indici di borsa, chiedo venia, nel senso che adesso abbiamo anche un problema di sistema, eccolo qua che si è bloccato. Per quello che riguarda Milano il calo è dello 0,20%, le altre borse hanno cali tra l'1,1%, lo 0,70% di Londra, lo 0,90% di Parigi, l'1% di Francoforte, lo 0,10% del Dow Jones. Nel frattempo veniamo all'Europa, perché Berlino oggi ha annunciato che il governo tedesco vuole arrivare al pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero, nel 2015. Non accadeva dal 1969, questo è l'obiettivo del governo di grande coalizione e nel caso specifico del ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Ha detto Schäuble: non ci sono pericoli di deflazione nell'area euro. Concordo, ha detto comunque Schäuble, con quanto dichiarato recentemente da Draghi. Vabbè, io qualche pericolo di deflazione nell'area euro la vedo, però è l'opinione giustamente del ministro delle finanze tedesco. L'inflazione in Spagna va a più 0,1 rispetto a un anno prima. Ora Se depuriamo questi dati, per esempio dalla Spagna sull'Italia, dalla componente energetica, secondo me su molti prezzi siamo già in deflazione. Comunque. Ancora per quello che riguarda altre notizie di oggi sulla trattativa tra le banche e Sorgenie, quindi la famiglia De Benedetti che attraverso la CIRNE controlla il 53%, ha detto oggi il consigliere delegato di UbiBanca, Victor Massià, è in corso una negoziazione estremamente delicata, devo essere generico, le posizioni sono ancora distanti ed è difficile fare delle previsioni, le banche chiedono... Se viene chiesto alle banche di partecipare all'aumento di capitale, vogliono che De Benedetti, che la CIR metta 150 milioni di euro come aumento di capitale, la CIR vorrebbe metterne 100 milioni, a me non mi sembra che su questo le posizioni non siano ancora conciliabili e conciliate. Per quello che riguarda un dato invece che emerge dall'Istituto Bruno Leoni di oggi è interessante sulle ferrovie dello Stato italiane, sono costate 207 miliardi di euro nei 21 anni trascorsi dalla trasformazione in SPA, cioè dal 92 al 2012, una media di 9,8 miliardi di euro l'anno, mentre calcola l'Istituto Bruno Leoni è un costo doppio rispetto alla media europea. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, poi la base, buonanotte, la pagina di Focus Economia, ormai a forza di mettere musica, la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo invece con una nuova base per il primo tema, che è l'avvicinamento al Consiglio dei Ministri, mi riferisco all'audizione di Carlo Cottarelli, il responsabile della Spending Review al Senato, dove Cottarelli ha dato alcune indicazioni su come si muoverà questa Spending Review, da cui, se abbiamo ben capito, il governo conta di reperire almeno la metà, quindi 5 miliardi, delle coperture per ridurre il cuneo fiscale di 10 miliardi. Verranno salvate le fasce più deboli, dice Cottarelli, e aggiunge: credo che sui 3 miliardi di risparmi possibili nel 2014 ci si possa arrivare, ma dipende da quando si comincia. Se le misure fossero state avviate da inizio anno, avremmo risparmiato su base annua 7 miliardi. La stima resta di 18 miliardi per il 2015 e di 34 miliardi di risparmi per il 2016. Il numero che è indicato nel mio documento come massimo risparmio per quest'anno su base annua, poi chiarirò cosa si intende, perché su base annua è di circa 7 miliardi. Cosa vuol dire su base annua? Questo se le misure fossero state introdotte dall'inizio dell'anno, ma siamo già in anno in corso e quindi bisogna tener conto di questo. Bisogna anche tener conto del fatto che ci vuole un certo margine di prudenziale, quindi io credo che su base annua un numero ragionevole sia invece di 7, per avere un margine circa 5 miliardi, che fra l'altro è il numero citato già nei giorni scorsi dal ministro Padoan. E quanto effettivamente si avrà nel corso di quest'anno dipende da quando si comincia, però grosso modo se 5 su base annua, io credo che sui 3 miliardi si possa fare per il resto di quest'anno. Naturalmente però dipende da quando si comincia. Quindi per quest'anno in termini di risparmi effettivi per gli ultimi 8 mesi dell'anno si potrebbe essere nell'ordine dei 3 miliardi se si fanno le cose giuste, se c'è un pieno sforzo in questa direzione. No, c'è qualcosa che mi sfugge, però per carità, io non ci capisco niente, non sono Cottarelli, ma se tu stimi 18 miliardi di risparmi per il 2015, 34 per il 2016 e 7 se avessimo iniziato quest'anno, c'è una progressione, per cui sono 7 quest'anno, più del doppio nel 2015-18 e il doppio quasi nel 2016. E la progressione, diciamo, ha un suo senso. Non capisco una cosa, però. Se iniziassimo adesso, che è marzo, abbiamo perso 3 mesi, ce ne restano 9, diciamo, ce ne restano, diciamo anche che iniziamo ad aprile, ce ne restano 8 di mesi. Come mai 8 mesi buttano solo 3 miliardi, mentre 12 mesi avrebbero buttato 7 miliardi? Ho capito, però è abbastanza inspiegabile. 7 miliardi se avessimo iniziato a gennaio, 3 miliardi se iniziamo a marzo. Non capisco, per carità, sicuramente ci sarà una spiegazione, però è un po' singolare. No, perché uno dovrebbe immaginare, vabbè, abbiamo perso i primi 3-4 mesi, mi levi un quarto del tempo, per cui andiamo a 5 miliardi. Non è un dettaglio, perché 3 miliardi vuol dire non riuscire a coprire neanche un terzo della manovra sul cuneo da 10 miliardi. Ammesso che venga annunciata veramente questa manovra e non un piano di intenti, come potrebbe essere. Ma adesso vi arriveremo. Cottarelli continua. La spesa per le pensioni, che è molto alta, è nel mirino del commissario, che infatti propone un contributo temporaneo per le pensioni oltre una certa soglia, essenzialmente per consentire l'assunzione di nuove persone, per cui non verrebbero toccate l'85% delle pensioni, e invece il 15% sì, per sgravare gli oneri sociali per i neoassunti. La terza area riguarda la spesa per pensioni, dove bisogna tener conto di alcuni fatti. È una spesa molto alta, come sapete intorno ai 270 miliardi di euro, e le misure proposte in proporzione a questa dimensione sono piuttosto contenute. Rappresenta la spesa circa il 16% del PIL. La proposta è quella di un contributo temporaneo sulle pensioni oltre una certa soglia, essenzialmente per fiscalizzare gli oneri sociali dei nuovi assunti. Quindi fondamentalmente è un contributo che viene dato all'interno del sistema pensionistico per consentire l'assunzione di nuove persone. Ne verrebbe però esentato l'85% dei pensionati, quindi non si guarda alle fasce a reddito più basso. Ecco, hanno ragione gli ascoltatori a segnalare che non si capisce se queste siano misure già pronte per essere applicate oppure, diciamo, casi di studio, casi di accademia. Si potrebbero essere fatti, per esempio, sulle auto blu. Il commissario straordinario Cottarelli dice: ho proposto un modello misto tra quello inglese e quello tedesco, quindi o Rolls Royce o Mercedes, no, fate la battuta. Quindi auto blu solo per i ministri, un pool massimo di 5 auto per ministero. È possibile anche tagliare, risparmiare sulle sedi RAI. Per la RAI è possibile fare qualche risparmio ulteriore? Ho un po' di suggerimenti. Per legge deve avere sedi in tutte le regioni, non potrebbe benissimo coprire informazioni regionali senza avere le sedi. Nel mirino anche il CNEL, ci sono enti pubblici che si possono eliminare o razionalizzare, tra quelli da eliminare ad esempio io avrei individuato il CNEL. Ma perché Cottarelli usa così tanto il condizionale? Avrei individuato, cioè, allora vuol dire che siamo ancora nella fase di studio. Allora forse ha ragione l'ascoltatore che scrive stima 3 miliardi, perché pensa che a questo punto potrà partire, visti anche i tempi, solo a giugno. Questa potrebbe essere la spiegazione dei 3 miliardi. Alcuni mi dicono forse la progressività è anche mensile, non solo annuale. Comunque non ho capito, perché se partivamo a gennaio erano 7 miliardi di risparmi, se partiamo adesso sono 3, ma mi lascia un po' perplesso tutto questo utilizzo del condizionale. Come dire, ha fatto la ricognizione ma ancora non è operativo il piano, non è attuabile. Ripeto, non è un dettaglio, perché quando il governo dice troveremo parte delle coperture per il cuneo fiscale dalla spending review, io capisco che la spending review è pronta a partire, perché sennò dove cavolo vengono queste coperture? E poi il governo dice almeno 5 miliardi, no? 5 miliardi prudenziali, qua dicono 3, insomma, no? E continua Cottarelli: la sanità è un'area delicata, e di questo siamo tutti convinti, da cui per la spending review il contributo deve essere inferiore ad altri settori, anche se c'è qui qualche risparmio da fare. Ancora, il contributo sulle pensioni. Se il governo deciderà un contributo temporaneo sulle pensioni più alte, salvaguardando l'85% degli assegni, potrebbero essere a rischio coloro che hanno un reddito da pensione superiore a circa 2.500 euro netti, ovvero la soglia fino a 5 volte il minimo. Questo perché, ha fatto un calcolo anche l'ANSA, si va a vedere chi sono l'85% degli assegni, a chi appartengono, a quanto ammontano, scusatemi, l'85% degli assegni e a quanto ammontano il 15%. E infatti abbiamo l'82% degli assegni pensionistici che è inferiore ai 1.500 euro, poi il 95% è sotto i 2.500 euro e il 91% è tra i 2005 e 2005. Allora, tutto in ritardo qui. Tra poco la conferenza stampa, battono le agenzie. Vincenzo Miglietta, buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Vedo che non capisco se siano immagini di repertorio. Sì, sto guardando assieme a te anche le televisioni. Tra poco la conferenza stampa. Allora, hai un'indicazione intanto sui tempi? Allora, dobbiamo dire che sui tempi ancora non si hanno notizie, doveva essere alle 17, ma non si ha sentore che possa finire il Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è iniziato in ritardo. A questo si aggiunge la novità di giornata, che sul cuneo fiscale, Sebastiano, non ci sarà alcuna accelerazione. Sì. È prevista infatti solo un'informativa del Presidente del Consiglio Renzi, quindi registriamo in generale una frenata sia sui tempi della conferenza stampa, doveva essere alle 17, sia su quest'altro pilastro dello shock economico di Renzi. Quindi per oggi solo un'informativa sul cuneo fiscale. Sono confermati invece gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, dall'emergenza abitativa ai provvedimenti sul lavoro, e tra questi la delega al governo per la riforma degli ammortizzatori sociali e il riordino dei contratti di lavoro. Sì, a questo punto, guarda, non ci vuole molto a capire che il titolo è questo, perché già nel pomeriggio era circolata insistentemente, anche nel primo pomeriggio, la notizia che probabilmente sul cuneo fiscale, diciamo, vi sarebbe stata un rinvio, un'informativa, dopo che nei giorni scorsi erano circolate le notizie di un cuneo fiscale da ridursi di 10 miliardi praticamente solo sull'IRPEF, per favorire i redditi sotto i 25 mila euro lordi l'anno, con maggiori vantaggi sugli stipendi di sotto di 15 mila euro lordi, con un beneficio consistente in busta paga perché era di 100 euro al mese. Questo vuol dire che sulle coperture non c'è ancora la quadra, Vincenzo, io così la capisco. Sì, è così, e mi ricollego, Sebastiano, anche a quello che anticipavi su Cottarelli. Sembrerebbe che uno stop, comunque un invito a rallentare, sia arrivato a Renzi proprio dal ministro dell'economia Padoan, proprio perché se già Cottarelli ha fatto quelle sue stime comunque con un condizionale, evidentemente poi i soldi che possono arrivare dalla spending review non sono certi, e quindi vedi che, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, perché ascoltandole ci siamo resi conto che insomma questa era un invito al governo a stare molto cauto, tutti i condizionali che ha detto, la stima di 3 miliardi invece che 5, ragazzi, non sono noccioline, perché insomma 3 miliardi e 5 è il 40% in più. Detto questo, Vincenzo, almeno 40% in più, il motivo di questo ritardo, cioè se bisogna fare solo un'informativa sul cuneo fiscale, annunciare il Jobs Act, ma rimandare la ciccia, perché la ciccia si chiama quanto riduci il cuneo fiscale e dove becchi le coperture, perché ci mettono così tanto? E tra l'altro aggiungo, non rispondendo però a questa tua domanda, che vedo, per esempio, dall'ordine del giorno manca anche il provvedimento sull'edilizia scolastica, che era un altro cavallo di battaglia. Non si sa se poi magari entrerà così, in maniera così dalla finestra, nel Consiglio dei Ministri di oggi. Speriamo che la montagna non partorisca un topolino, no? Lo dico per il Paese, lo dico perché è importante avere misure immediate, si era creata tantissima attesa, non per colpa nostra, su questo Consiglio dei Ministri. Lo stesso Renzi aveva detto mercoledì, dateci, doveva essere venerdì, dateci 3-4 giorni, così mercoledì presentiamo il piano shock. E vabbè, vediamo se lo shock non diventa uno sciocchino, diciamo un piccolo shock in questo senso, volevo dire. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso facciamo la borsa e poi vediamo quando arriverà la conferenza stampa di Renzi. Devo dire, sì, insomma, le anticipazioni non sono esaltanti, nel senso che appunto sembra che vi sarà solo un'informativa sul cuneo fiscale, che il problema che abbiamo notato anche noi, cioè la spending review non sta gettando quello che dovrebbe, non sta buttando quello che dovrebbe buttare. L'ha detto lo stesso Cottarelli, probabilmente ci raccontava il nostro Vincenzo Miglietta, lo stesso ministro dell'economia Padoan ha invitato alla prudenza, perché le coperture servono, e servono strutturali come chiede l'Europa. Cioè non può essere semplicemente il calo dello spread, perché lo spread cala quest'anno, poi che ne sai dell'anno prossimo. Devono esserci tagli strutturali, cioè spese che non avrai più, non entrate una tantum e incerte sul futuro. Comunque la borsa, dicevamo, oggi i conti dell'Enel li abbiamo raccontati, più 1,26%, ma di nuovo tengono banco le banche. Pop Milano più 5,30%, UBI Banca più 4,70%, Monte dei Paschi più 1,36%, i conti del Monte dei Paschi li abbiamo già ricordati. Ciao Condina, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Pop Milano e UBI Banca. Eh sì, oggi è stata un po' la giornata delle banche, soprattutto delle banche popolari, che hanno salvato, tra virgolette, Milano rispetto agli altri listini continentali, una seduta di realizzi. Parigi e Francoforte hanno perso attorno al punto percentuale, Milano invece soltanto meno 0,25%. UBI Banca, ricordavi tu, ha guadagnato il 4,77%, qui c'è un utile 2013 pari a 250 milioni, in netta crescita rispetto a quello dell'anno scorso, che era cioè di 2 anni fa, che era 82,7 milioni, e soprattutto ben superiore un po' a quello che era il consensus, cioè l'opinione del mercato. Anche per quanto riguarda BPM si festeggiano i dati, c'è un ritorno all'utile 29,6 milioni a fronte della perdita del 2012 che era di 430 milioni. E questo per quello che riguarda le banche. Cito anche altri titoli però, oltre a Monte dei Paschi, Pop Milano e UBI Banca, Unicredit più 0,55, Generali più 0,50, Intesa più 0,30. Ma Unicredit, la borsa festeggia di più, ed è molto cinico chiaramente come ragionamento, gli esuberi 8.500, di cui 5.000, più di 5.000 in Italia, o il fatto che la banca abbia messo in atto una mega operazione di pulizia, mostrando che ha dovuto accantonare 13 miliardi e 700 milioni di euro per crediti che non rivedrà più? Ma sicuramente, diciamo, la pulizia di bilancio, ancorché ha un effetto puramente contabile, è una cosa che è stata apprezzata dal mercato, che spera che sia l'ultima. Per quanto riguarda gli esuberi, fanno sicuramente parte di un piano industriale che è stato anch'esso, diciamo, apprezzato dal mercato, per essere diplomatici. Per essere diplomatici. In realtà purtroppo sappiamo che quando, ma questo avviene in tutte le borse, e la dice lunga sul fatto che la finanza non possa essere, diciamo, l'elemento che guida l'economia, ma al massimo è di aiuto all'economia, quando un titolo quotato annuncia licenziamenti, di solito sale in borsa, perché il ragionamento che si fa bene rimetterà a posto i conti. Andiamo avanti, è nel più 1,26, quindi i conti di conti, oggi tutto un gioco di parole, sono piaciuti. Sì, è piaciuta anche la promessa di un aumento del payout, cioè della percentuale di utile che viene distribuito sotto forma di dividendo. Sì, quest'anno è stato del 40%, la promessa è che nel 2015 si arriverà al 50%. Anche per quanto riguarda Enel c'è un piano strategico al 2018 che stima un calo dell'indebitamento, un aumento del MOL, numeri che ovviamente saranno poi tutti da verificare, anche perché ricordiamo che la crisi del mercato energetico è veramente molto forte. Veniamo al settore lusso, però, dove vorrei mettere dentro un po' di tutto. Tod's, Ferragamo, Campari non è proprio il lusso, però Tod's perde il 5,14, Ferragamo il 2,90, ho visto anche Luxottica perdere l'1,60, aggiungo Jux meno 3,50 e World Duty Free meno 2,20, poi di Campari parliamo dopo. Ma che è successo oggi? Ma ma sicuramente diciamo che in questo inizio del 2014 il lusso è un po' il protagonista delle vendite, anche perché siamo davanti a titoli. Beh, l'anno scorso era il protagonista degli acquisti. Abbastanza. Cioè, ricordo sempre che Ferragamo è stato quotato a 9 euro, era arrivato a 30, sì. E adesso è per esempio a 22, quindi comunque siamo sempre su livelli molto alti. Per quanto riguarda proprio la giornata odierna, Tod's ha perso oltre il 5%, qui al di là dei conti 2013 ci sono delle prospettive indicate dal management un pochino deboli per quanto riguarda il 2014, del resto anche in questo settore non si può sperare in una crescita indefinita. A ruota sono arrivati anche Jux, che ha perso il 3,5%, Salvatore Ferragamo il 2,8%. Ancora Campari, allora aveva aperto bene Campari sulla notizia dell'acquisto di una distilleria canadese, perché ha comprato il whisky Forty Creek per 120 milioni di euro e continua quindi la campagna, lo shopping di Campari, che aveva comprato un grande produttore di rum l'anno scorso, adesso whisky canadese. Poi il titolo però perde parecchio. Sì, c'è stato un, diciamo, un utile netto 2013 in leggero calo, è comunque aumentato il dividendo, però ricordiamo che Campari è un titolo che ha retto veramente tantissimo negli ultimi anni a fronte diciamo dei rovesci di borsa. Secondo me questa è la classica situazione in cui si è acquistato prima e poi si è venduto con la diffusione dei conti. Non c'è nulla, non ci sono dei conti particolarmente negativi. Dicevamo dei migliori e peggiori di oggi in borsa, la Lazio 23%, adesso un commento anche sulle società sportive, ci vuole Enervit più 21,70, Ceramica Ricchetti più 19, Centrale dell'Alta di Torino più 13 e la Roma Calcio più 10,70. Fronte opposto Seat meno 5,50, Datalogic meno 5,80, Dimay Group meno 7%. Allora, ciao Condina, rapidamente, oggi il derby romano lo vincono tutte e due. Sì, oggi sono. E la Juventus anche più 5,80%, scusa. Sì, diciamo un'impennata abbastanza inspiegabile. C'era già stato un periodo a fine anno scorso, in realtà parallelamente a quella quando era stata venduta la maggioranza dell'Inter a Eric Toier, in cui le società di calcio erano cresciute molto in borsa, poi in realtà avevano anche corretto parecchio. Oggi c'è stata questa nuova fiammata che ha riguardato tutte e tre le squadre quotate, insomma vedremo se nei prossimi giorni sarà confermata. Grazie, ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi restiamo sul tema di borsa di questi giorni, cioè la pulizia dentro i bilanci bancari. Allora dico una cosa, ma adesso, il ritardo nella conferenza stampa non è il problema, obiettivamente abbiamo visto di tutto in questo paese sui tempi delle conferenze stampa, no, non è quello che mi preoccupa capire se, come anche in un comunicato di Palazzo Chigi, il fatto che sul cuneo fiscale vi sarà solo un'informativa è frutto di un'assenza di copertura finanziaria, di un problema, come dicono alcune agenzie, anche di uno stop che è arrivato da Napolitano, dal Presidente della Repubblica, e anche da una messa in guardia da parte del Ministro dell'Economia dopo l'audizione di Cottarelli. Cioè, mi preoccupa capire se che non si sia arrivati un po' troppo alla garibaldina su questo Consiglio dei Ministri per poi rendersi conto che queste coperture non c'erano. Io non ho nessun problema che la conferenza stampa venga fatta alle 5, alle 6, alle 6 e mezza, basta che abbia i provvedimenti dentro. E comunque lo dico a chi scrive che tifiamo per Renzi o che vogliamo già distruggere Renzi, che non siamo né pro Renzi né contro Renzi, lo stiamo aspettando come nella linea di questo gruppo con i fatti. Chi ha studiato lo chiama fact checking, io dico semplicemente fatti alla mano, vediamo le misure e poi le analizzeremo. Intanto i fatti nel mondo bancario ci sono, perché è partita quella che potremmo dire la primavera degli accantonamenti, non degli accantonati, degli accantonamenti. Ha iniziato ieri con le rettifiche, cioè le banche si accorgono che molti dei soldi che hanno prestato non li vedranno più indietro, non li possono più mettere come crediti ma devono metterli come sofferenze, e a quel punto devono accantonare i soldi per soldi che non mette da parte dei soldi per soldi che non torneranno più indietro. Diceva all'inizio ieri Unicredit con 13,7 miliardi, oggi il Monte dei Paschi per il 2013 2 miliardi e 750 milioni di rettifiche. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo un minuto, poi andiamo col Gerry, poi torniamo con te. È appena iniziato secondo te, sì o no? È iniziato per alcune banche, Unicredit sicuramente, Montepaschi ha fatto tanto, altre banche secondo me non stanno facendo abbastanza pulizia, tant'è vero che i tassi di copertura, cioè quanto mettono da parte le banche per far fronte alle perdite future, sono molto diversi da banca a banca. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, in attesa della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri che è appena terminato, quindi dovrebbe iniziare, da quello che capiamo, a breve. Moria Longo, chiudiamo invece l'approfondimento sulle banche, la pulizia che stanno facendo. Tu dicevi prima del GR, attenzione perché alcune banche, Unicredit ieri 13 miliardi e 7 di accantonamenti, di soldi che non gli rientreranno, quindi deve mettere altri soldi da parte a copertura. Oggi il Monte dei Paschi 2 miliardi e 750 milioni. Perché dici che non tutte si stanno comportando in maniera analoga? Perché stanno accantonando, il tasso di accantonamento di soldi messi da parte, si chiama tasso di copertura tecnicamente, è diverso da banca a banca. È vero che le banche hanno portafogli di crediti in sofferenza diversi, perché alcune hanno molti mutui ipotecari con appunto immobile garanzia, altre meno. Però stride molto vedere che Unicredit mette da parte per coprire le perdite sui crediti in sofferenza il 62% del valore del credito, cioè se è erogato 100, 62 li ha già messi a perdita. Il Banco Popolare per esempio mette a parte il 37,9. È vero che probabilmente ha più garanzie, è vero che Unicredit è molto esposta nell'est Europa, però la differenza è molto forte. Banca Popolare di Milano per le sofferenze mette da parte il 55,5, Montepaschi il 58,8, UbiBanca al 41,6. UbiBanca per esempio ha chiuso con un utile, oggi ha assegnato un utile per il 2013 di 251 milioni e non ha fatto molti accantonamenti per coprire le perdite dai crediti deteriorati. Questo cosa vuol dire? Che una banca come Unicredit ha fatto una vera pulizia, ha messo a perdita, tant'è vero che ha chiuso con 14 miliardi di perdite, perdita storica, però adesso i crediti sono in bilancio iscritti a un valore ipoteticamente corretto di recupero, cioè si può sperare che Unicredit da questi crediti in sofferenza non perderà più soldi perché li ha già molto svalutati. Quelli che erano dubbi o praticamente era certo che non sarebbero tornati, le altre banche, io non posso dirlo per certo perché nessuno conosce se non le banche dirette o la Banca d'Italia il loro portafoglio crediti, ma Anaso e tanti analisti sono d'accordo, non hanno fatto la stessa cosa, tendono a mettere poco da parte, a mettere a perdita poco, perché altrimenti rischierebbero di aver bisogno di molti ulteriori aumenti di capitale. Quindi per evitare di perdere ulteriormente, di registrare grosse perdite, tengono questi crediti leggermente o non leggermente sopravvalutati in bilancio. E questo per esempio, su questo non dovrebbe intervenire la Banca d'Italia. Cioè, che la Banca d'Italia autonomia, ci mancherebbe. No, però la Banca d'Italia interviene. Allora, il discorso che faccio è puramente statistico, di dati. La Banca d'Italia conosce o ha la possibilità di conoscere effettivamente i singoli crediti, quindi per esempio una banca che ha molti più ipoteche su immobili è più garantita, quindi è giusto che accantoni meno perché c'è l'immobile a garanzia. Una banca che invece ha meno ipoteche su immobili deve accantonare di più perché ha meno garanzie. Però quello che stride è la grande differenza tra queste banche, c'è una discrepanza enorme, o anche all'interno delle stesse banche il comportamento che hanno oggi e il comportamento che avevano anni fa. Per esempio il Banco Popolare, dico un nome a caso, per i crediti in sofferenza attualmente accantona il 37,9%, nel 2007 accantonava il 53%. Questo cosa vuol dire? Che la stessa banca, cioè il Banco Popolare, nel 2007 era molto più prudente, metteva molto più a perdita rispetto a quanto fa oggi. Sì, se posso estendere il tuo ragionamento, è strano che una banca che era così prudente sui crediti in sofferenza, quindi era molto realistica sulle possibili perdite nel 2007 quando l'economia andava bene, sia così ottimistica e così e più positiva nel 2013, quando veniamo dal 2014, ma sul bilancio 2013, quando veniamo da un anno massacrante sul fronte dalla recessione peggiore che l'Italia abbia mai provato. Sì, come anni, non come intensità nel singolo anno, ma come anni, e soprattutto dato anche allarmante sulle chiusure di imprese, di esercizi commerciali e quant'altro. Da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata.